Ok, Rivera, ma tu cosa fai, suoni o canti? Ma io così mi diletto così a cantare, diciamo, niente di che, quando sono con gli amici anche qui a casa miei. Mi piace molto, la coltivo molto, una passione come la radio, anche forse anche di più, capito Roberto? Ma cos'è, Sassarese o musica italiana, internazionale, cosa fa? Anche il Sassarese, no, soprattutto italiano, dai, straniero non faccio quasi niente, mi piace ascoltarla, mi piace ascoltare anche gli altri amici quando cantano, quando c'ho, però di cantare in inglese per esempio no, no, però no. L'italiano e anche il folk mi piace molto. Diga, ma dottore, c'è cosa, video di Radio del Golfo, come si chiama? Luciano Gallini, così? No, Luciano Gallini è quello della Feroce, è di Sassa, è di Praia, è di base DJ. Ma roba. Ah, no, no, scusa, come si chiama di cognome? Di Praia. Radio del Golfo che fa il programma di Sassari, quello che sta dicendo? Quello che fa il programma Sassari del sabato è Luciano Gallini, è Sassarese, è la chitarrista di Trovate Roce. Ah, lui è Sassarese, pensavo fosse il portatore, e chi è l'altro tipo che gli fa compagnia lo stesso? Fiorello. Ah, ok, c'è anche Giovanni Raiti, avanti Giovanni, che c'è Gianluca da portatore. Ciao Gianluca, buonasera. Qui stavo arrivando, mi sto prendendo il caffè, quindi ho fatto il preannuncio lì. Poi volevo chiedere a Roberto, buonasera a tutti comunque, no, della vernice testurizzata lì che ancora non riesco a capire, no, questa cosa. Cioè, cosa vuoi sapere? Praticamente, questa vernice è antigrazia, no, almeno così ha detto il mio falegname. Una vernice molto particolare. Sostanzialmente quella vernice lì è a base di cosa? Di a base poliuretaniche. Sì, molte volte sono poliuretaniche, ma esistono anche normali, sintetiche, anche se diciamo di poliuretaniche hanno una resistenza all'usura e all'abrasione superiore, perché è più duro come materiale, come pigmento. Acustiche, la verità è eccezionale, è fatto un lavoro sotto il mio progetto ovviamente, ma le ha verniciate così texturizzato, ma ho visto che sono anche molto, molto isolizzate da questa vernice, a prescindere dalla base di MDF da 2 mm già, ma da 2 cm, cioè da 20 mm è già bello grosso. No, ma è una vernice che comunque rende. Allora guarda, io, vabbè, quello che stai dicendo tu è un pochettino più duro come tipo di materiale, nel senso resiste di più, è più vetrificato rispetto a quello che ti dico io, perché io ho fatto anche delle casse e mi hanno chiesto di farle, anzi non è che le ho fatte per me, io le avevo fatte, le avevo solo verniciate, delle casse abbastanza grosse, e gli ho dato l'antirombo plastico, dato con la pistola sua dovuta, con la giusta diluizione, gli dà sicuramente a livello di insonorizzazione e di assorbimento delle vibrazioni è di gran lunga superiore a questo coso qua, è leggermente meno duro, diciamo un pochettino più morbido rispetto a quello che stai dicendo tu, a quel prodotto che stai cercando tu, rimane un pochettino meno resistente all'abrasione, però puoi fare spessori molto ma molto più grossi, per cui per certi versi è più protetto il materiale dove lo darai. Allora, antirombo ho detto volgarmente, è un antisasso, chiamiamolo antirombo quello che si usa nei passaruota delle macchine, diciamo, a parte interna, adesso ci sono gli insonorizzanti che li mettono in plastica, i passaruota interni sotto il palafango sono quasi tutti in plastica, no? Ma nelle vecchie macchine mettevano questo antirombo, il cosiddetto antirombo antisasso, esistono diverse qualità di questi antirombi e diversi modi di procedimenti per distribuirlo, se tu usi la pistola adatta, la giusta pressione, col giusto ugello, riesci a fare un effetto tipo ruvido, protettivo e ti dà anche un vantaggio a livello di vibrazione, cioè di insonorizzazione. Aspetta un attimino, c'è qualcuno che sta schiacciando quando parlava Roberto. Ciao Giovanni, ciao, buonasera, ben sentito, un po' più basso delle altre volte, non so per quale motivo, ma già riesco ad ascoltarti. Non so chi è che sta schiacciando e vuole entrare, avanti. Oh, lasciarlo agganciato. Mi ascolti bene, posso troverlo? Adesso sì. Adesso faccio anch'io questo passaggetto. Dai, come giù va adesso? Va bene, ci siamo viziati. Ho capito. Ci piacciono le telefonate. Bene, bene, è tutto bene. Avanti, Eugenio, buonasera. Buonasera, Giovanni. Anche a te, buonasera, per la figliera, mi sa tanto. Allora, cosa stavate parlando? Di verniciare antirombo, antisassi? Allora, io non me ne intendo di vernici, mi devo fare ancora una bella cultura, sto imparando. Ho la passione dei maltini, mi piace verniciare col pennello, soprattutto, ma anche con le bombolette. E ogni tanto chiedo a Roberto delle cose così, no, per capire cosa devo fare quando mi ci metto veramente. Ecco, te volevo chiedere, Roberto, ma fondamentalmente se io ho una superficie che è stata, va bene, per molto arrugginita, io di solito vado a fondo, no? Vado a fondo e disintegro proprio lo strato di ruggine e, con la moletta, ovviamente non mi metto con la carta abrasiva, ma così mi parano e neanche se mi frustano. Quindi cerco di mandare via tutta la ruggine, però poi il problema è questo. Intanto la parte che è stata abrasata, così appunto, ha bisogno di essere ripristinata con lo stucco, però non riesco a capire, ma questi stucchi, allora, stucco metallico, stucco qui, stucco là, ma insomma, cazzo, porca miseria, ma non c'è uno stucco che io posso lavorarlo senza avere un sacco di problemi nel metallo, così, esiste qualcosa? Il 62. Sto parlando, scusate un attimino, stiamo parlando di stucco a spatola, di cosa stai parlando, di protettivo? E qualcuno ha parlato, avanti. Vabbè, il P62 è un fondo, io voglio capire se stiamo parlando di stucchi a spatola o stucchi a spruzzo. No, allora, se ti sto parlando qui di vernice a pennello, è logico che la cosa va tutta a mano, anche con una bomboletta, comunque sei lì, non è che stai andando su professionale. Parliamo un attimino di noi poveri mortali, ecco, io voglio capire, ma insomma, questo stucco, che mi sembra che è entrato Luca, che dovrei utilizzare per compensare questi brasamenti fatti con la moletta, perché poi va a fondo, per pianificare, per avere una superficie più o meno liscia, non dico che diventi la carrozzeria di un coso, di una Lamborghini, ma insomma che sia presentabile. Che tipo di stucco dici di usare? Così distribuire uno vista, ecco. Allora, prima di tutto cerca di usare possibilmente abrasivi più bassi possibile. Quando usi la moletta, la cosa preferibile, se riesci a usare una spatola attaccata alla moletta è anche meglio, magari è più pericolosa di proteggerti con i guanti e con le dovute mesi, diciamo, di protezione. Però utilizzare la moletta col disco in pietra è una cosa che ti lascia delle abrasioni molto profonde. Poi esistono i dischi con la carta vetro, quelli più semplici, con la carta vetro, che hanno una grana leggermente più sottile e riesci a fare lavoro un pochettino più rifinito. Tutto dipende dalla profondità del solco che fai. Io consiglio, se sono solchi leggeri, dargli una brasata di stucco con la spatola avvicinato bene, allungato bene su una superficie piana, stiamo parlando naturalmente, e poi rifinirlo con la carta a vetro di grana, arrivare sino per dire alla grana 60-80 sarebbe ancora meglio, e poi dargli uno strato di fondo riempitivo. Il fondo dipende lo spessore dalla durizione che fai. Normalmente il fondo, quando è buono, ti fa circa 300-400, anche 500 micron di spessore. Sono tanti per noi carrozzieri, per voi sono pochissimi, nel senso, se tu devi togliere le perfezioni non vanno tanto bene, per cui è bene rifinire bene con lo stucco, dargli uno fondo a spruzzo di questi che dico io, questi fondi ormai poliuretanici non esistono più, cioè esistono ancora, però sono ad esaurimento perché sono prodotti, diciamo, che non vanno bene per questioni ecologiche, ci sono prodotti nuovi di nuova generazione a basso contenuto di solvente eccetera eccetera, è inutile dilungarci, però non fanno, rispetto al P62 che stava parlando Gianluca, non fanno grossi spessori, hanno quello come difetto, per cui vuole rifinito bene il coso, se vuoi fare un lavoro, diciamo, ben fatto. Solo da pennello te ne puoi dare a tratti, lo fai seccare, gli dai un'altra carteggiatina sopra, gli dai un altro strato, tipo a riempire, solo così puoi farlo. Sempre allo stesso punto, l'ho capito che devo trattarlo così, Ma che tipo di stucco uso? Allora, lo stucco, vabbè, noi usiamo lo stucco che funziona anche per le lame resincate, è uno stucco, vabbè, di componente, non credo neanche che ci sia, esiste lo stucco alla nitro, quello però va bene per piccolissime stuccature, cose infinitesime, usiamo anche quello lì, ma raramente lo usi, però lo stucco a spatola, quello classico, che ci sono di tutte le marche, da carrozziere, chiamiamolo, gli metti il catalizzatore, lo misceli bene e lo, tieni presente che dopo pochi minuti asciuga quasi immediatamente. Nel giro, se c'è d'estate, nel tempo di miscelarlo ti si secca in mano, per cui devi farlo abbastanza velocemente il lavoro. Te ne fai un pochettino per volta, non farlo tutta una volta, sennò quando dare la seconda brasata, se non sei pratico ti si secca sulla stecca, poi pulisci bene le stecche, scusa, sulle spatole e poi gli dai un'altra, lo rifinisci un pochettino e gli dai un'altra brasata. Se sei bravo puoi farlo anche in mano unica. Sì, ma ritorno a dire, ma che succo, che marca è, cos'è, dove lo trovo? Allora, lo stucco lo puoi trovare in tutti i negozi di attrezzature, diciamo, di verniciatura, non so se a Itili ci sarà qualche negozio che vende attrezzature per carrozzeria, se no qua a Sassari ce ne sono tantissime. Noi ci serviamo per comodità, visto che siamo soci al consorzio dei carrozzieri, la UPAS, che è il più grosso che c'è a Sassari, specializzato su vernici, fondi, eccetera, eccetera. Poi c'è la Max Meyer, c'è Mura, BFM, la Predanieta, ce ne sono tanti di negozi. Diciamo, questi sono i principali. C'è quello che è diciamo, più specializzato su roba edilizia, comunque è esobistica, quello Nattante che c'è in via Turati. Però se vuoi andare a scatola chiusa, vai alla UPAS, vicino di fronte all'Osa, tu sarete che conosce dove l'osa e non sbaglio. Ecco, sì, ma cosa gli chiedo? Allora, vado a dire, come dire, uno stucco per carrozzieri, così al volo. Allora, non è difficile, io ci ho detto, tanto delle lamiere, anche di spessore, qualche volta vengono molate così, con io utilizzo un disco d'acciaio sottilissimo, un millimetro, qualche volta al massimo un millimetro e mezzo, cioè 20 secondi, con una mola mafitta, 11.000 giri. Quindi non è che vado a fare i surchi, non è che c'è il ruscello, no? Però dico, mangia, perché la superficie viene comunque rosa, ma dico, se devo andare a prendere uno stucco, cosa gli dico? Max Meyer, boh, non lo so che numero è, quello più che più si compiace con un hobbista. Allora, lo stucco più o meno sono, come composizione sono molto simili, sono delle polveri con degli attivatori come catalizzatore e poi hanno dei prodotti acrilici in mezzo, diciamo in linea di massima sono delle polveri legate con delle sostanze chimiche. Allora noi, se tu vai alla UPA, se dove ti ho detto io, di fronte all'osa, gli chiedi Polydur Zinc della Leclerc, è il marchio, diciamo, che va per la maggior parte, noi utilizziamo quel tipo di prodotto, loro ce l'hanno anche della Grasulit, adesso anche della Panina, però vai su quello, Polydur Zinc, che è un prodotto ottimo, lo puoi usare anche sulla mele zingate, se devi fare altri lavori, non hai problemi di distacco, perché il problema quando utilizzi la mele zingate, se non usi lo stucco preposto, c'è il rischio che si stacchi e ti faccia tipo un pezzo di scotch che ce lo metti sopra, tiri e ti si stacca, non aderisce bene. Sì, ecco, come si chiama, ripeti il nome? Polydur Zinc stucco, è scritto con la I lunga, Polydur. Ok, Polydur Zinc, benissimo, va bene, perfetto. Boh, mi serviva solo questo, fai girare, altrimenti monopolizziamo qua, scusate gli amici, avanti produttore. Sì, già. Allora, mi sono accettato Luca da Monza, vero? Buonasera a tutti. Ciao Luca, buonasera, c'è anche Eugenio e tutti quanti. Un'ultima cosa, quei dischi che, come ti stava dicendo Roberto, ti consiglio quelli dischi, stanno dicendo con la caccia abrasiva, sono chiamati dischi lamellari, quelli, ci sono diverse grane, e quelli appunto non hanno un'abrasione con uno solco diretto proprio che ti fa, che dopo a riparare viene un po' male, viene, insomma, per tarabattare ti conviene dopo stuccare secondo che cosa è. Con quelli invece levi la ruggine e non lascia proprio quella, se usato uniformemente bene, non ti fa quei grossi insulti, capito? Quindi è abbastanza riparabile anche con una verata di stucco, come sta dicendo Roberto. Sì, però non è FIVA, così mi è capitato un contenitore che era in un ambiente un po' umido, ho voluto recuperarlo perché è bello robusto. Niente, no, non usciva, ce l'ho quella specie di disco in gomma cui viene messa la carta vetrata successo nella mattina? No, niente, no, no, andava male, faceva un lavoraggio strano, invece con la moletta cosa succede, no? Usando i dischi di taglio, praticamente sono dischi d'acciaio, quelli che uso io per tagliare l'acciaio, io sono uno che l'acciaio lo tratto molto, e comunque niente, ho dovuto tirare fuori circa 2 mm di ruggine, in certi punti però, c'era solo in certi punti, quindi tanto vale a quel punto andare a fondo e proprio eliminare la ruggine all'apice, perché si sa che la ruggine è il cancro della lamiera, no? del ferro in generale. Quindi l'ho eliminata perché l'ho eliminata. Poi vabbè, ripeto, non deve essere la carrozzeria di un Lamborghini. Quindi a questo punto, se io faccio con questo Polydur Zinc, faccio una miscela così come ha detto Roberto col catalizzatore, gli do una bella mano, come dico io, gli faccio un piano all'antica, dopodiché gli passo bene la carta abrasiva, come dico io, con quella specie di mattonella che uso sempre in piano, in senso antiorario, sfregandola piano piano come faccio i dissipatori per farli piani al massimo. Niente, va bene, mi interessava la qualità dello stucco, perché poi ci sono stucchi che non servono a niente, ecco, questo è interessante, vedete, è molto interessante, va bene, e niente, riprendilo. Sì, come ha detto Roberto, ce ne sono molto buono, quello lì era della Glazoli, quello col pappagallo disegnato, quello molto buono, anche Max Meyer, comunque, e anche altri ce ne sono della... Io sto usando anche certe volte quando capita questo della Impa, qualità prezzo è abbastanza buono, ferrobistica, dopo di carrozzeria, giustamente se vuoi un lavoro fatto bene, che dai anche una garanzia al cliente sul lavoro, allora usi prodotti buoni. Ma detto questo, saremo a parlare fino a domani mattina. Avanti, Eugenio, dai. Qui adesso deve essere che qualcuno si è allontanato, incomincia a sentire delle scariche abbastanza alte qua, forse sta piovendo, lascia vedere, sì, sta piovendo infatti, dai, avanti Luca. No, sono qua io, lui, io sono sempre qua. Chiamo, non rispondi, dopo giustamente faccio girare per gli altri, no? Ma ho già risposto, solamente che ho capito che se hai fatto alimentazione al baracchino, mi si allena, non esce, capito? Giallo, sì, avanti. Mi senti a me? Ma la mia trovi, Eugenio, mi senti? Sì, vieni a farti, dimmi. Hai preso l'alimentatore? Sì, che c'è l'alimentatore. Ah, lo sei comprato? Sì, ma l'altro c'è a farlo. Vabbè, comunque se qualcuno di te lo sta vedendo uno. 10 ampere, buono, funziona benissimo. Un HP12. Come tipo quello che ha preso Eugenio, quanto lo sei andato lui? La quarantina, roba nuovo. È buono, 10 ampere sono un bel. Trasformatore, non è a schede. Oh, Robè, dimmi Giovanni. Poi volevo capire, ma come lo vendono? Un chilo, mezzo chilo, 100 grammi, c'è? Allora, 750 grammi dovrebbe essere la confezione di quello lì, però diciamo loro considerano millilitri, perché adesso ormai è tutto a litro, non è più a chilo, prima venisse dammi un chilo di vernice, invece adesso è a litri, dovrebbe essere appeso 750 grammi, una cosa del genere. E come devo dire, litro, mezzo litro? Dici un barattolo di stucco Polydur Zinc e basta, loro sanno già tutto. Ok, perfetto, come costo, com'è quello assieme al catalizzatore? Guarda, non ti vorrei dire una fesseria, ma io penso questo intorno di 15-18, intorno ai 20 euro, no, forse non arriva ai 20 euro quella roba lì. E vedete, ci sono anche i succhi più economici come quello che ha nominato poco fa, cosa, però sinceramente abbassare il prezzo di 3-4 euro per a discapito della qualità, questo qua se a botta sicura è un ottimo succo, noi lo usiamo da sempre ed è eccezionale. Molto malleabile, nel senso da miscelare, e facile da lavorare, perché ce ne sono altri che poi diventano pietra e viene male alle vigare, è inutile avere un prodotto troppo duro, deve essere anche facile da lavorare, da sagomare, quando tutti stiamo parlando superfici in piano non c'è problema, usi il tacchetto, ti metti il tampone sotto, ma quando devi fare delle sagome, ricostruire, lo stucco deve essere anche morbido. Ok, no, ma mi interessava più che altro quello, no, pensavo che costasse se almeno 50-100 euro, ma così va bene, 18-20 euro insomma, va bene così, no, non è un problema. barattolo, come durata nel tempo, cioè nel senso che lo uso oggi e ci sono problemi. L'osco ti può durare anche 2-3 anni, perché se non c'è l'attivatore rimane così, magari d'inverno tende un pochettino a indurirsi come cosa, come consistenza, però l'importante è che lo chiudi bene, tu lo tieni un po' asciutto, non lo lasciare sotto l'acqua che soffre l'umidità, quello è importante. Ma detto qua non ci piove, grazie a Dio, cercherò di tenerlo il caldo, se non basta lo metto nella gabbia di criceto, per fare un po' di pipì su, ma in linea di massima durerà, le volte ti dico. No, già ho capito, non mi interessava appunto capire normalmente, con condizioni ambientali normali, se durava. Sì, no, interessante. Questa dello stucco è una cosa che io non sapevo, pure dello zinc, va bene. Sì, perché poi certi stucchi che ho usato appunto alla fine, lascia stare, non riusciva manco a mola. In effetti quello non è modo di lavorare una superficie fatta con lo stucco. Quello si chiama rusparla, non trattarla. Va bene, la riprendi, ritorno subito dopo perché mi prendo il caffè. E vabbè, dai, io devo interrompere però adesso, ci sono già un pochettino. Vabbè, saluto tutti gli amici, se non spero di non dimenticarmi nessuno. E siamo da Eugenio, Gianluca, Giovanni da Ittiri e Luca qua del Monte. Non so se ci sia qualcun altro, c'è un ascolto anche, coso, si chiama Leoncino, se c'è lui saluto anche lui. Cuore detti da parte mia. Buona serata a tutti e buon proseguo. Vabbè. Eugenio, sono domani c'è una buona manifestazione a condanna da volcante. Di che cosa? Però si festeggia il carnevale. No, di che cosa? Ma detto la manifestazione di che cosa? Dei camperisti ha detto. Ehi. Vabbè, purtroppo io domani sono impegnato per questioni di sport tutta la sera, cioè, tra l'altro è prevista anche una bella giornata. Mi sarebbe piaciuto andarci, sarebbe stata più avanti a primavera, ti ringrazio comunque dell'informazione. Va bene. Buon proseguo di nuovo, QRT da parte mia. Ciao ciao. Ciao Roberto. Buon 144 quando lo fai e buon tutto per domani. Ciao, alla prossima, avanti Luca. Sì, ciao Roberto, alla prossima. Dove ti trovi, Eugenio? Dove ti trovi? La Porta Torres. Sei un po' bassino, un bel po'. Va bene. Gianluca prima mi stava arrivando più forte, passato. Sì, adesso ho passato Roberto. Ma Luca, scusa. No, Eugenio, diciamo che l'uscita del Porto Torres di Lioni, dai, non so se c'è presente dove sono i campetti, il ristorante di Lioni. Più o meno, sì, ho capito. Ma l'ante mio, sicuramente. No, ho messo una gran play adesso, sul letto, ma volevo tirare anche un pochettino su, quella tira su ancora meglio. No, ho capito, ascolta, come mi dicevi a me invece, Eugenio. Santiago 5, Santiago 5, arrivi a come segnale 5, neanche come radio, perfetto. Radio va bene, la più bassa adesso, l'ho aumentato io, perché lo tenevo basso qua, se mi dicono che è troppo forte. Ma io ti ascolto perfetto, e tu dove stai moviando? Io sono qua, a Monte Rosello Alto, credete in Canada. Ho capito, Monte Rosello Alto così, a Monte, là. Positivo, verso Via Tereta. A me? Ho detto verso Via Grazia Tereta. Ah, sì, lo so, dove sono le casette in Canada, dai, che ci ho frequentato lì, più o meno. È positivo, no, qui sentite a Rita Stefano, più sentiti. No, non li conosco. Di Virgilio. Tutti me ne parlano di questa ritta Stefano, però io non li conosco, non li ho mai visti. Vabbè, non è visto, sentite la macchina anche. No, neanche non ci vi, mai sentiti. Ci compreso, no? Vabbè, avanti Gianlu, riprendi. Ma di questa dritta sopra il Peruposo, la zecca. Ma mica che scende in fretta, c'è quell'armeria di Antonio, di Pristello, qui sopra ancora, no? Ma cosa ho detto io? No, sono più comparato. l'altro incrocio, sapendo quell'incrocio lì, l'altro, quattro incrocio, gira da destra, fai 50 metri anche, giocopo, la via a sinistra, lì, non c'era sbagliare, quello di canto era rimasta la via, non c'era sbagliare. Si avvicina al rattugio rimane, giusto? Vicino? Al rattugio, più o meno. C'è la festa del carnevale e molta gente, sicuramente ci sarà un raduno di camperisti, così siamo tutti organizzati. Siamo tutti in camper domani e ce ne sono un bel po', scende anche gente a Caglia, insomma una bella cosa. Non so, questo Stefano è, come si chiama? Lucia mi sembra, ci hanno i cittadini ai camper. C'è una casa pure, sì, hanno il camper, c'è un baracchino. Lo fanno sempre, cioè lo fanno con amici, vanno a Caglia, vanno a fare campeggi, viaggiano. Ho capito, però non ha funzionato, vabbè io ce l'ho l'anno, io non ce l'ho da tantissimo, capito, quindi non è che conosco tantissima gente. E loro sono anche ritirati, 2-3 anni, non lo so, 4, comunque, se dovesse capitare, non so, prima ne trovavo molto spesso a Maracchino, lì ne trovava spesso, adesso con impegni di lavoro un po' abbandonato, comunque, l'ultima volta l'ho sentita, un mese fa, a 45 era, forse di più anche, non mi ricordo, non vorrei dire una balla, guarda, sì, comunque già ne fanno anche loro viaggi, a voglia, l'estate soprattutto, vanno in ferie e partono. D'estate io sono vivo praticamente al lavoro, d'inverno c'è un po' più di calma, è un pochino più libero, ma l'estate sono buttato al lavoro, ma dopo torno al posto di lavoro. Vabbè, ma comunque l'estate non lo fate di più, cioè non andate di nelle parti di Caglia, di Oristano, fuori campeggi. Guarda, io conosco tanta gente, però di provincia Sassari non conosco nessuno. Conosco tutti quelli di Cagliari e conosco una marea. Perché anch'io per andare qua vicino non me la frega niente di usare il campo, però mi piace viaggiare. Ascolta, quanti sono le 300? Sì. C'ho anch'io, lo stavo prendendo. E questo qua, sì, è le 300. Sei trovato il microfono, grazie. Prima non si è già pavanuta, ma così, ma è nuovo nuovo, anche questo è nuovo nuovo. Nuovo nuovo. Sembra che stia uscendo la mia luce. Anche questo è nuovo nuovo. Anch'io, questo non c'ho batteria. Si possono modificare comunque, questo no. Però vai su internet piano piano. Controllare bene e vedere un po' la modifica. E dopo, che modifica di che genere? Dei trimmer, per aumentare l'eco. Ah, vabbè, no, ma guarda, quello lì invece... magari se invece si può aumentare l'amplificazione, invece, che quello è molto più importante, la radio. Aida, la capsula, non so se è sua originale, ma mi sa di sì. Però volendo si potrebbe mettere quella del telefono, bisogna provarle, non lo so, bisogna vedere. Io per esempio questo microfono qua adesso la cellulata di casa Santa Romani purtroppo sono salta per saldature e stavo cercando di adattarla, però non ci sono riuscito, capito? Alla fine ne ho messo una del telefono di casa, di quei telefoni bianchi dalla Telecom. Non so, cioè ce l'ho da un po' adesso, va bene, si sente bene. Può essere sì che quelli sono tanto, di quelli c'è una marea di varietà, di quelle capsule piccoline che sembra una pastiglia. Cioè, se si è una gatta e non vedo poco. Qualcuno anche si gratta, c'è qualche numero, qualche cosa, insomma, come referenza per la, appunto, per quando la cerchi di ricambio. Bisogna vedere appunto le caratteristiche come sono. Infatti, io ho adattato quella, la capsula. Quello che va bene, cioè, dicono che va bene. Può essere sì che magari che ci si adatta, e come no. Molte volte le cose insolite, molte volte si mette a giocherellare, no, prova questo, prova quella, se trovi le soluzioni e vanno bene, perché no? Eh sì, andava avanti, uscito. Quanto lo segnate? 1300? Ah. 1300, però lo tengo basso di ecco. Allora, perché io ce l'ho tanto? No, tu va bene, io non so come siete questo qua. Questo è a metà di una tacca, mi. Per esempio adesso così l'ho messo una tacca. Così l'ho messo a metà di una tacca, così a metà. Però no, non so come mi serve, come ti serve, dai, perché non lo posso ascoltare adesso. È troppo ripetitivo, eh. No, comunque già sono bene di 1300. Era uno mio fratello. Quando all'epoca faceva consegne, no? Lavorava con Pier Andrea. C'era un impiantino nel furgone, cioè ha trovato 4005, che è simile a quello che sto usando io. In più le 1300 modificato e più un amplificatore da 400 watt mi sa, o ci può essere, non mi ricordo, buffava, con la PLC 1000, era un treno un impianto di quella macchina, buffava un po' davvero, con la 1300. No. Senti, guarda che entrava anche nei telefoni, nelle cabine telefoni che entrava, mi chiamava la cornetta, intendi aereo con i denti. Ma l'intento ho fatto veramente bene. E vabbè. Cioè sono buoni quei microfoni, dai. Per essere Intec sono buoni. No, questi DM1000, ma cazzone l'ha comparato un cane di questi microfoni. E non è che sia questo granché. Poi a quanto pare le 1300 non consumano molta batteria. Confermate? No, io guarda, il palmale che mi piace di più, che ho avuto più soddisfazioni di amplificarsi, è proprio le 1300. Ho avuto anche le 1400, ho avuto le Zavelta, ne ha già avuto di questi microfoni, però le 1300 è quello che veramente spinge di più. Si adatta di più bene a molti baracchini, e va benissimo. E costava a me, a chi dico microfono? Cambia le lire, costava 120 mila franchi, 125 mila lire mi sembra. Infatti, forse sì, adesso vabbè, sono passati un po' di anni. Io ce l'avevo un 1300, ma era suburbano, tu mi sa fraggio, era. Ma lei che avevi saltato dentro un cannello, un nuovo saltatore. No, questo qua è il nuovo integro, c'è tutta la scritta bella, le scritte, quelle bianche che generalmente si vanno a consumare, no? Giustamente si sono delle serigrafie, quelle lì sono incisive in prezzo, non sono come delle placchette che rimangono. Queste qua già ci sono tutte. Sì, batteria ne consuma veramente poca. Come consumo proprio ne ha quasi zero. Vanno benissimo. Se ci mette una batteria di quelle alcaline, di quelle dure, c'è la voglia, più durante anni. Infatti, non mi abbia la batteria, più buca, più dette. Anzi, no, andiamo. Era una rotetta, era un vero, era una dura batteria. Non si può fare da... un po' di mesi fa. Però non l'ho contrattato. E guarda, Giugge, dai, oggi. Ma deve essere io, Giugge, Barone, tanto, guarda, che problema l'ugursore o cosa di avrò è. Perché ogni tanto forse non riesce a entrare. Ma sei lui? Ma c'è problemi a schiacciare? No, ho capito cos'è, no. Ho capito cos'è, quando non troppa alimentazione al baracchino se ne scende, e lo smette fa giù. Non capisco perché, Gu. Come, cosa vuol dire, scusa, troppa potenza al baracchino, all'alimentatore? Cosa fai? Allora, mi sta segnando 15 volts. Dai 15 10 e 20 c'è la linea rossa, se io l'aumento posso aumentare nella linea rossa, il baracchino va in abbattimento, capito? Ma guarda, cioè, l'ho inventato del regolabile? Ma questo ce l'ho da anni, lo usavo con il VHF per lavoro, capito? Quello, la stazione fissa che c'ho a casa. Ah, ma tu quello lo devi mettere a 13,8. Se riesci a vedere un bello tra 13,8 dici, devo metterlo più alto e più basso. Sì, ma se lo metto a 13,8 non mi sale lo smitter, mi sale fino a 7,5. E invece quando lo metti come funziona dopo? Quando lo metto a 14, diciamo così, sale fino a 9 lo smitter. Io ho detto 13,8, 14 siamo lì, Non mettere più alto perché sennò vabbè, non lo so se cosa ne potrebbe fare, non lo so, però io già mi attengo sempre a quello che c'è scritto. A 12 mi sembra anche un pochettino poco, perché è stato alimentato. 13,8 o 14 dovrebbe andare bene. Adesso va bene. Ce l'ha 14, adesso mi sale fino a 7 lo smitter. Se lo metto a 15 sale fino a 9. Ho capito. Avanti Luca. Tra un po', si intende mettere a 100, prova? Stai provando? Sì che si sente. No, che veloce, ma lo motivo, boh. Non me l'ha mai fatto. Poi lo controllo bene, faccio qualche filo che sta facendo i capricci. Ecco, allora, siccome la cosa che c'ha un pochettino rodiosa, questi microfoni con la batteria, è che quando tu vai a mettere la batteria, la levi che la sostituisci, devi fare attenzione che, hai visto che va appoggiato dove sono tutti gli attacchi dei fili? Attento lì, perché a lungo andare magari mettendo la volta, incastrando, stringendo il capo, magari non è cosa così, quei figli magari tendono a attaccarsi, o comunque sia non c'hanno bene il contatto, capito? E bisogna ricontrollarli per bene, perché sono proprio veramente proprio lì davanti te li trovi. È vero, ce ne sono. Allora aspetta, sono due neri, poi c'è il rosso, bianco, un altro nero, un blu e un altro nero. Sì, la signora mi affetto piano piano, lo smonto. No, perché il microfono è buono, nuovo, capito? Nuovo. E poi mi sa faccio, ti metto un pezzo di latte isolante, comunque si sente bene, sì. Vabbè, ce l'ho frontale, si sente bene? Sì, si sente bene, non c'è problema. È buono come microfono, guarda, io. Quello che ti ripeto che mi sono trovato meglio con i palmari amplificati, capito? È quello che mi sono veramente trovato sempre bene con questo palmare qua, perché giustamente in macchina, se vuoi uscire con il radio, ci devi mettere il amplificato a palmo. Questo qua veramente con una alla 48, ma anche con altri baracchini l'ho provato. Adesso per esempio io lo sto facendo andare con lo Stryker, e questo qui, questo Stryker qui, ce l'ho avuto anche in auto. E come l'ho provato anche con le, ce l'ho avuto con il Jackson, ce l'ho avuto con il Ranger, quindi figura di due, e ho sempre avuto messo l'M300. Sì, praticamente di scatola la prova sta roba, mi sa che adesso mi metto un pezzo di latte isolante, ah, mi dici di fare domani questo problema, così una blu, no? Ci lasciamo sul mondo. Eccolo qua, aspetta un attimo, Gianluca, ti ho messo un pezzettino per vedere se mentre lo porto l'attesolante la batteria non metti quel problema lì, una volta che lo chiudo, perché non l'ho mai fatto, capito? No, ma prima però di mettere un altro, Luca, controlla ad uno ad uno se li senti che sono saldati bene, che sono ben agganciati. Luca, avanti, cosa, butta sotto casa il microfono, poi già ci penso io a fare i feziati. Allora, mamma mia, davvero? Che tempo che se posso buono partire, domani sarà torna a picchiemi. Ah, ti avrei perso io, vai, sì. Cazzo, il mio drone l'ha fatto. Hai sentito? un paio d'antenne, chiedi. No, ma non lo fa, non fa. Già, faccio la luce e tutto, però meglio farlo domani, dai, con calma, con più tempo e tutto, va, non da poco gara, cioè, non è proprio a tutta la pezza, ma non è, cioè pure, poi è pulito, ma comunque, andava il microfono, andava la bomba. E poi ci domanda, va, una modifica, già lui, vediamo un po' cosa dice, vedi, no, vedi, non fa, vedi, adesso sì. Un attimino riprendo subito che mi sta sempre saltando un po' di salvavita qua, a casa, forse è temporale. Aggiungo che ho un po' più sicurezza alla situazione, Lorenzo, dai. Hai scollegato un po' l'antenne? Ah, già non ci sono un'antenna, di due. Qui c'è la X30, VU. Vabbè, attaccata, non ho niente di attaccato. E in più ho la manato qua. Mamma mia, cazzo, mi stai più pulare in occa? Sento proprio disturbi atmosferici nella radio, proprio. Sai che il QRM grosso, proprio raucco. Ma di antenne vai? L'ho scollegato tutte quante, l'ho scollegato 1, 2, 3, 4, 5 l'ho scollegato. Che cazzo? Mi si vede la patente? Vediamo un poco, la giornata da quando c'è via un libro, poveretto, e a esercitarmi, poveretto, più tanto tempo già annaggio, ma lì c'è studiato. Adesso sto andando con l'antenna quella sopra la TV, ho scollegato due dipoli, ho scollegato l'altra grande che c'ho tipo la Mantova, una Big Banda, una Grand Play e un discone. E più, ah no, pure una minorita di VHF minorita. Tu ci sono con la tagliatura, uscita? Sì, tutti in altra capisciuria. So, il garrato dove c'ho mio, no? Sono tutte una è lontana, le altre sono quasi concentrate, diciamo, una vicino all'altra. No, quanti antenne hai su? Io su ne ho due di queste da 27, che sono più o meno due Mantova, no? Che sono una 8001, l'altra si chiama la Lemme, sempre tipo la Turbo. Ho due dipoli e l'antenna della B-banda, quella lì, quella ricezione, e il discone. E il discone per il coso, per il ricevitore. Domani non si viaggia a me. Domani, vabbè, devo usare, ma non so così travaglia né. Mi ha dato gomi, adesso vedi un cane, arrivi gomi, e mi sta a fare un dramma e poi si nanda. Che si faccia di culo sul cane, lo faccio. Domani ci sarà neve da tutte le parti, Bonorva, c'è una sfilata, bisogna vedere il tempo se lo permette. Però mi trovo, perché posso andare a Bellana dopo il cancer? Si vuole trovare la mente. Come ti oggi? Che vuoi andare a Bellana dopo il cancer? Si vuole trovare la mente. Come le mani, catena, vedrai? La voglia catena glielo faccio la Tirrenia. La voglia di chi si catena, no? Chi si che ci vuole catena? Di cosa devi mettere quando sono così, anche dietro? O solo nelle ruote motrici? Sono le ruote motrici. Fatto da rete abbastanza pesanti, a voglia? Vanno nelle ruote, le catene vanno nelle ruote di trazione. Trazione e direzione. Se tu hai la trazione posteriore, però le direzionali sono le anteriori, giustamente, devi mettere sia dietro che avanti. Ho capito? Casino, cazzo, via. Tanto se vado ancora, poco rimasta, mamma mia, va. Già posso dire a lui che non mi sono ammalato, mamma mia, quanto sono fatto male. La sassa è un temporale, ci va la sassa lì. No, adesso no, c'è freddo però. Vabbè, freddo sì. Lui ha sentito il tuono qua. Ho fatto una domanda, hanno fatto sopra, ragazzo, ma è una bomba. Mi ha fatto scattare il salvavita in casa a me. Lui ha fatto un invito, lui. Buttala giù. Ma io poi davanti una dita, una santa di esso per così, una chetta di continuo, La so fare, la so fare. Butta l'acciuga, butta l'acciuga. Questa cosa di che la dita so a mare, si è sempre che è a mare, no? Ma è un poliziotto. Io facevo un servizio a me. È un poliziotto, Gianni. Addirittura si organizzati sia puro volontari, mi prendete le cose e ognuno va a una zona da esso che per la perlustrazione. Se c'è uno che sta bene, faceva anche un misto, come che un paio di volte, un paio di volte uscissimo anche a noi a fare un misto. Però anche la cosa della caccia subacquea, quando si va anche uscito a mare alla giura, però hanno trovato. No, è strano perché a casa hanno trovato tutto, la macchina hanno trovato tutto, non lo so, la barca l'ha rimeggiata. E su un poliziotto sparito, visto? Cosa lui? Il poliziotto sparito, quello? Ma comunque. Dai, il suo visto, no? Distintino. Ah, ex poliziotto, ma era quasi vita Sassari allora. Faceva servizio per autobus, però era in pensione, era già in pensione. Ecco. Hai fatto un bar qualche anno qui, sono quattro anni di via, va. Così, una brava persona, proprio bravo, bravo. Tranquillone. Ma è sparito come, così? Non si sa come, non si sa niente. Non si sa niente, lo stanno cercando, non si sa niente. Ma è sicuro che Chico è caduto a mare o è uscito a mare? Lo so se è caduto a mare, ma che motivo? Ma lo so, hanno trovato la barca ormeggiata anche, dopo la se ne fa sempre lui. Ma infatti, se hanno caduto a mare, vuol dire un motivo, Non lo so, speriamo che lo trovino vivo, soprattutto, perché era proprio una brava persona. Casino, ma ti sei dici? Da un po' è sparito questo già, no? Già è sparito 7 giorni, mi sa tanto, una settimana. C'è di cazzo, Zé. Si è fuori il muro, perché poco va sicuro. Come va, ci speriamo di no. Speriamo di no, anche perché è uno dei pochissimi, proprio pochissimi poi. Poliziotti che mi erano simpatici, dai. Sì, ti credo. Speriamo bene. Guarda, ho si ammazzato. Magari se ne è voluto andare, speriamo che sia così. A volte è vivo. Mi ha sposato, non ha niente. Ha ragione, in pensione. Vedo quello che dice, che lo conosce, va bene, di voi due, tu già tu. No, Eugenio, io ho un amico, mi faccio Marco Bizzecchi. Ah, tu conosci di meglio Eugenio? Sì, è uscito anche un paio di volte con lui a fare un mister. Da una persona, sì che lo conoscevo, poi ha fatto un sacco di anni servizio al porto, io sono lì e ci conoscevo, sì, è andato da bene. Ho capito, ce ne sono molti, auguria. Ah, vedo pure un pezzo di pigliata in culo. Care Yoga. E c'è Giampaolo. E tu vai su, ma se mi arriva a Santiago 3 a me, è impossibile che sia Giampaolo. Giampaolo è, quando te ne sono stato letto va. Ma che arrivi? Giampaolo, ha già avuto niente noca, ragionendo, e dopo una tiramola siamo rimasti a noca. E uno va nell'altro, infatti non va niente noca, non va niente proprio gridare, già fa. C'è su Romeo, roba di guerra e me. Ma scusate, ma perché io faccio fatica a sentirlo? Perché sta uscendo con l'altro, non so cosa, un malattino basso sta uscendo già Paolo adesso, capito? Andiamo subito. Mi sono un po' curiosa, ma ciao, mi sei da un radiale, cazzo. Santiago, questo non riesco a capire. Ah, l'altra cosa è che il volo già stava. Ma questo c'ha una modalità diversa dalla mia. Del Monte quale?